Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti, ben arrivati, anzi ben arrivato a me, sono Dan J, questa nuova ora anni 80. Questa sera sono in compagnia di un amico che ci sarà con me anche nell'ora successiva, Gianni. Intanto salutiamo Claudio e Giangi che con un ruolo rock potente e forte ci lasciano, ci deliziano sempre con note stupende. Abbiamo iniziato questo nuovo programma con un brano di un gruppo a cui io tengo particolarmente. Loro erano gli ABBA e questa era Dancing Queen. Questa sera ascolteremo solo esclusivamente musica anni 80. Quindi per i romantici, per i nostalgici, per i giovani che si vogliono avvicinare, ben arrivati, benvenuti. Gianni, vuoi dare un saluto? Sì. Buonasera a tutti, ha già detto tutto qua il mio carissimo collega. In effetti stasera è così l'inizio di una nuova trasmissione, lui andrà avanti con gli anni 80, speriamo di farvi ballare, ricordiamo sempre che siamo qua su Radio Live Session. Siamo in diretta, mi raccomando, abbiamo la chat, scriveteci, possiamo fare anche qualche richiesta, quindi fate delle piccole richieste e cercheremo di soddisfarvi il più possibile. Con noi sta entrando Sam Fox. Touch me. This is the night. Sam Fox. Pensate che negli anni 80 Samantha Fox era un'icona sessuale, simbolo erotico, ha fatto schiumare e impazzire centinaia di migliaia, forse milioni di uomini all'epoca, prima vera icona sexy di quegli anni, forse l'unica straniera. In Italia poi avremo qualcuno, vi faremo ascoltare chi avremo come icona sexy di quegli anni. Io andrei avanti adesso con un pezzo un pochino più tranquillo dopo questa carica erotica forte di Samantha Fox. Lui era Cook Robin, il pezzo è The Promise You Made. If I laid down my love to come to your defense, would you worry for me with the pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. Promise You Made su questa sera, nuovo programma anni 80, Only 80s, 80s Superstar con Dan J e Gianni. Bene, come già potete aver ascoltato, non vi faremo ascoltare i classici ballabili da discoteca, perché tanto li ascoltate comunque ogni sera nelle sale da ballo, nelle discoteche. Faremo in questo programma ascoltare la musica più ricercata, forse anche quella più bella, quella che non si sente tutti i giorni, comunque, quella che comunque non si ha la possibilità di avere tutti i giorni. E giusto appunto, chi arriva adesso è il grande Dandy, anni 80, Brian Ferry, signori. Slave to Love. Allora, che ne dite di questa bella dolce musica? È il nostro Dan Jay che in regia conduce sempre delle ottime trasmissioni. Bravo, bravo. Una carezza a lui. E qua dietro di me, ragazzi, fa un caldo tremendo. Stiamo facendo la sauna, come penso un po' tutti voi. Però c'è da dire che comunque il tempo dovrebbe tornare un po' sulle temperature normali. Questo caldo africano dovrebbe lasciare adesso il nord Italia per spingersi poi oltre, speriamo che non torni più perché come tutti ben sapete fa troppo caldo. Io tra un'ora, diciamo all'incirca, anzi ancora meno, comincerò poi anche io con dell'ottima musica italiana. Sto scegliendovi i brani e Dani J vi terrà compagnia adesso con questa anni 80, sempre Radio Live Session. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, no expression, have my head, I want to drown my soul. Tears for Fears qui su Radio Live Station. Io sono sempre Dan J, come c'è Gianni. Questa era solo musica anni 80. Stavo cervellandomi oggi su che cosa poter scegliere da farvi ascoltare, che cosa sarebbe potuto piacervi. Ho fatto in testa mia, va bene? Se vi piace mandateci dei messaggi, se siete all'ascolto scrivetecelo, se non vi piace scrivetecelo comunque, così almeno noi possiamo migliorare i messaggi. Dicevamo prima di icone sexy straniere. Noi in Italia in quegli anni avevamo un'icona molto sexy, era una ragazza che adesso è diventata una gran donna, e che donna! Io vi faccio ascoltare il pezzo, non vi dico neanche come si chiama, vediamo se riuscite a capire chi era. Thank you. Bene, lui vi ha tenuto sul misterioso, era lei Sabrina Salerno, la bomba Sexy Sexy Girls. Siamo sempre qua su Radio Live Session. E cosa ci fa ascoltare? Vediamo un po' Danny J cosa ci mette adesso. Partiamo sempre con un gran caldo, fa un caldo. Noi ragazzi di oggi, noi con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali e stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ma non puoi farci cedere. Noi siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere, qualcuno ci può offendere. Noi sappiamo in cosa credere. Devi venire con noi, siamo ragazzi di oggi noi. Dai, coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà. Na-na-na, siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare. Sappiamo in cosa credere. Ragazzi di oggi noi, ragazzi di oggi noi, siamo il fuoco sotto la cenere. Non farti prendere, da questo eterno candere. Siamo quello che può succedere. Non fare spegnere la voglia che di ridere. Noi siamo quelli in cui tu puoi credere. Devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi noi. Dai, coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà. Na na na, na na na, siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare. Ditemi se vi devo dire qualcosa. Ditemi se vi devo dire qualcosa. No, no. Cioè, a me particolarmente piaceva, lui era Luis Miguel, ragazzi di oggi, messicano, partecipò a Sanremo all'età di soli 16 anni, pensate che roba. Bene, lui era, rimaniamo sull'italiano perché sì, anni 80, ok, arrivava tanto dall'estero e poi c'era Patron Cecchetto che comandava la discografia italiana, ma si cantava soprattutto in inglese perché poi era stata sdoganata la lingua inglese e si lavorava così. Ma noi avevamo dei cantanti italiani non indifferenti, per esempio il signore che stiamo ascoltando che entra adesso. Non so se vi dice qualcosa l'introduzione. Umberto Tozzi, Stella, stai. Stai, Stella, stai su di me questa notte, come se fosse lei, fosse Dio, fosse quello che ho io. Polaroid, Stella, stai, non ci vento di fular, visto mai, visto mai. su chi viene fuori sei tu, sei tu. Non andare un figlio se può, dai tuoi occhi se no, se no. E torna a fare a questa porta, voglio tenerti tra le mie. Faccia, altrimenti torno a lei, lo sai. Bene, siamo arrivati alle 21.30, siamo sempre qua su Radio Live Station. Avete la chat, vi ricordo, avete la chat, se volete così scrivere qualcosa e richiederci qualcosa o salutare qualche persona. Vi ricordo sempre www.radiolivestation.com, siamo sempre noi qua da Torino. Vi ricordo una delle prime radio digitali nate qua in Torino. E qua siamo su una bella terrazza, però con un calore, ragazzi. Bene, io su questo brano volevo approfittare a salutare un po' di gente che mi dice che ascolta poi le trasmissioni, quelle che trovate sempre sul sito negli eventi live, cioè quindi quelle registrate. Bene, saluto, devo fare mente locale, un sacco di gente che mi dice ma sai ti ho ascoltato, via dicendo. E io però non mi ricordo. Allora salutiamo Felice, salutiamo Daniele, il mio compagno di viaggio di tutti i giorni. Ciao Daniele. Bene, poi ho altre persone da salutare, ma questo lo farò poi più avanti. Io vi ricordo sempre qua Radio Live Station. We'll be right back. under the lights, perfect victim. She's looking for the money. He didn't know he met a mid-cookie operation rep. No matter what the score, it's not enough. You have to try once more. Vai, sentite un po' che musica si mette questo Danizelli. Voi dovreste vederlo, sembra Fiorello. Voice reminds me, crossed my mind a thousand times. Lei era Taffy, I Love My Radio, sempre prodotto di Cecchetto. E a seguire abbiamo sentito questi due brani mixati. C'era Sandy Martin con Exotic and Erotics. Bene, è arrivato il momento che devo fare saluti anch'io. Sì, posso farli? Ok, ciao Samantha, ben arrivata pure tu. Ciao Manuela, dovresti ascoltarmi forse, vediamo, non lo so. Comunque, andiamo avanti con i brani. Rimaniamo sempre sugli internazionali. Quindi, loro sono gli In Drastic con State of Nation. Drastic State of Nation su Radio Live Session. Scriveteci se le vostre richieste, se vi piace, se non vi piace, cosa volete da noi, cosa volete ascoltare. Ultimo quarto d'ora insieme, poi lasceremo la palla a Gianni per l'ora italiana. Questa è l'ora 80s Superstar con Dan Jay, coadiuvato da Gianni qui insieme a me. Chi andiamo ad ascoltare dopo è un brano di una francesina piccola. Lei era Liu, Amor Solitary. Un peu de beauté plastique. More Solitary, bellissima, bellissima. Ero molto piccolo, mi ricordo un sacco di cose, bello, bello, bello. Vi facciamo ascoltare un brano dei primissimi anni 80, probabilmente addirittura il 1980, anche perché ha queste influenze molto 70, 70s, molto funky. Loro erano i Greg Kim Band con Joe Pardee. Ultimi minuti insieme, fate le vostre richieste, salutate, scrivete i vostri nomi sul sito così almeno possiamo anche salutarvi. Cheers. Jeopardy, senti come suona la chitarra. Molto anni 70, molto. C'è ancora qualcosa di psichedelico. Qualcosa di psichedelico sotto. Erano ancora delle influenze, ma poi da lì a poco. Da lì, diciamo, a qualche giorno sarebbe poi cambiato veramente tutto. Sarebbero arrivati loro, gli Yazoo con Don't Go. Don't you know, I never gonna let you go. Don't go. Yazoo, don't go. Bene, noi abbiamo io ho praticamente finito. Tra pochi istanti vi lascerò la linea a Gianni per l'ora italiana. Questa era l'ora 80s Superstar, il Superstar anni 80, ogni lunedì sera dalle 21 alle 22 con Dan Jay e Gianni. Mi raccomando, venite a trovarci numerosi, perché la nostra permanenza dipende solo e esclusivamente da voi. Se vi piace ritrovarvi, in sottofondo sentite già, io vi volevo lasciare questa sera con un pezzo a cui tengo particolarmente, diciamo un pezzo estivo, perché in sottofondo non so se sentite già, si sentono? Le cicale, il rumore estivo. Immaginatevi in questo momento di essere su una terrazza insieme a noi al mare, ok? Gianni va venerdì, la prossima sarò da solo. Allora proviamo a fare un esperimento di fine serata, chiudiamo gli occhi tutti insieme. Ok, fatto, perfetto. Proviamo a sentire il rumore delle cicale, ok, insieme al rumore delle onde del mare. E io vi lascio con i Fur Doot Doot.